Per un periodo le attività serali, gli incontri con l'autore e l'autrice. Questa sera quindi salutiamo con grande piacere e ringraziamo della sua così diciamo geniale trovata di proporre una galleria e un racconto della nostra storia cittadina con un taglio veramente molto diverso ed interessante, che è quello delle fotografie, di cui lei è una magistrale artista, la nostra ospite appunto, la cara Francesca Witzmann, che saluto e ringrazio ancora, e ringrazio anche Daniele Maganin che ci aiuta in questa serata, accompagna appunto la nostra ospite nell'illustrare una fetta della nostra storia, della storia della città di Bolzano, molto importante. Ricordo che io da piccola, insomma, che invidiavo tantissimo quelli che potevano andare ai concerti e io non avevo il permesso ancora, poi insomma poi me la sono cavata in qualche maniera. Comunque, ecco, una parte importante che forse ha anche dato uno stimolo, anzi senza forse, ha dato uno stimolo alla nostra città e l'ha resa molto più vivace e anche conosciuta anche attraverso tutti questi concerti. Quindi lascerò poi subito la parola ai nostri ospiti, ma mi preme ricordarvi anche l'appuntamento, l'ultimo vero appuntamento di questa sessione, che sarà lunedì prossimo in questa sala, con la presentazione di un libro intitolato Che non finisce mai. E saranno con noi Sonia Negri, Sara Petoletti, Michela De Santi, Giulia Marcantonio, Alberta Ruiz. Il libro tratta appunto del rapporto fra genitori adottivi e i bambini che vengono accolti nelle famiglie. È un impegno che ci siamo presi da anni, ogni tanto ritorniamo su questo argomento, perché la biblioteca comunque ha una funzione civile, una funzione non solo culturale, ma anche quella di rendere partecipi, di dare dei segnali alla società di quelli che possono essere appunto anche così dei modi di intervenire e di essere generosi, perché per noi la cultura non è solo libertà, ma è anche generosità. Quindi con questo poi vi salutiamo, vi ricordiamo che l'estate sarà per noi sempre un momento di attività e anzi vi aspettiamo con dei suggerimenti di lettura, e ricordiamo anche che è partito il premio Claudio Augusta, cioè questo premio per tesi di ricerca e di laurea per tutti i giovani che si occupano nella loro tesi di aspetti legati al nostro territorio. La consegna di queste tesi è prevista per il 4 di ottobre, quindi se conoscete qualcuno che si sta laureando e impegnando in questo ambito può rivolgersi alla biblioteca oppure guardare sul nostro sito quello che è il bando e cosa viene previsto. Vi ringrazio e auguro una buona estate a tutti. Grazie anche a voi. Grazie, grazie alla dottoressa Trevisan, buonasera e bentrovati. Francesca Witzmann non ha bisogno di presentazioni perché è, come si suol dire in gergo, la fotografa di colei che ha fotografato i grandissimi personaggi, cercando di capirne soprattutto le emozioni. Ed ecco il titolo di oggi, emozioni in bianco e nero perché le foto erano rigorosamente in bianco e nero, perché riguardano cantanti, attori, personaggi che si sono cimentati a Bolzano e non solo. E la foto in bianco e nero era arte perché c'erano i rollini nella freccia, anche un refuso, rollini che costavano, quindi bisognava usare la fotografia anche con un po' di parsimonia, forse che con un po' di con tanta arte e molta parsimonia. Anche la stampa era un'arte, la fotografia era un'arte che si tramandava tra l'altro di padre in figlio. Era un momento in cui i momenti ritratti nelle fotografie di Francesca Witzmann erano momenti in cui molti di noi hanno vissuto delle emozioni particolari. Per qualcuno, alcuni concerti è stata la cosiddetta prima volta, si andava al concerto magari con l'acqua e il panino e non con lo smartphone come oggi, magari si stava concentrati sull'evento dall'inizio alla fine e si andavano a vedere personaggi che erano autentici artisti nel vero senso del termine. Oggigiorno si è più portati ad andare a vedere invece il personaggio che è stato reso tale dalla televisione perché magari è uscito dal Grande Fratello, quindi vedremo personaggi di un spessore particolarmente elevato. Non mi dilungo oltre, Francesca, innanzitutto come ti... Vorrei ringraziare. Innanzitutto i ringraziamenti. Vorrei dire buonasera, grazie della vostra presenza. Buonasera, grazie della vostra presenza. Vorrei ringraziare voi tutti naturalmente e in particolare due persone, la Cristina Alberti che ha sopportato assieme al suo padre tutti i miei errori fotografici e poi un grande personaggio che sa tutto della musica leggera, che ci onora della sua presenza, il dottor Fabio Zamboni, che molto gentilmente pubblicava regolarmente tutte le mie fotografie sul quotidiano Alto Adige e io mi sono infinitamente grata e grazie, grazie, grazie ancora. Tieni, tieni pure. Allora, tre capitoli di storia: cantanti, attori e personaggi, li abbiamo suddivisi. Diciamo che c'è stato un periodo in cui i grandi concerti a Bolzano, quelli allo Stadio Druso, lo Stadio Druso gremito, attiravano l'attenzione non solo delle persone di Bolzano ma anche quelle da fuori che venivano ad assistere a queste straordinarie manifestazioni che peraltro Gianni Costa portò a Bolzano per un lungo periodo. Uno Stadio Druso gremito, stiamo parlando di anni 70 e 80, il tempio del calcio, tra l'altro diciamo violato dalla musica, che ha attirato folle oceaniche, quindi passione e coinvolgimento. Bolzano che per un certo periodo è diventata capitale della musica a livello internazionale. Come abbiamo detto, non c'erano i telefonini, quindi quei concerti si godevano in modo decisamente diverso, si aspettavano delle ore per entrare, per riuscire a valicare i cancelli dello stadio di Viale Trieste, si faceva la coda alla cassa, non c'era Ticket One come oggi per avere i biglietti online o sullo smartphone con il codice a barre. Diciamo che qualcuno faceva anche dei grandissimi sacrifici per riuscire ad arrivare a conquistare quel biglietto, perché di conquista si doveva parlare assolutamente, perché avevano un prezzo importante e quindi bisognava tra virgolette guadagnarselo, andare a lavorare oppure riuscire a ottenerlo in qualche modo meritandolo. Facciamo un po' di amarcord su situazioni che più o meno abbiamo vissuto tutti personalmente. Tra l'altro, come ha detto la dottoressa Trevisan, non avevo il permesso, quindi se non avevi il permesso a volte erano mamma e papà che portati i concerti, perché allora se non eri un under 21 dovevi andarci con mamma e papà nella migliore delle ipotesi, o mamma o papà, perché appunto i biglietti costavano, quindi o uno o l'altro. E quando davi il concerto appunto la diretta Facebook certamente non la facevi. Questa prima fotografia, Francesca, è un po' la sintesi di quello che abbiamo detto e stiamo dicendo. Uno stadio druso gremito soprattutto nella parte centrale, nel campo di calcio, in occasione dei concerti. Come la possiamo commentare? Ma ricordo che veramente sembra incredibile oggi dirlo, c'erano 11.000 presenze. Sono tante. Tantissime. Era un po' andato fuori il regolamento, perché non poteva contenere più di 10.000 persone, ce n'erano 11.000 e il dottor Fabio Zamboni se lo ricorda benissimo perché ha fatto tutti gli articoli. Eduardo Bernardo. Sì, in occasione di Edoardo Bennato che arrivava direttamente da Vienna e quindi è stato di... non volevano concedere lo stadio, questo mi è stato detto a suo tempo, però hanno detto ma veramente è a Vienna, sta avendo un successo clamoroso, possiamo anche farlo a Bolzano, questo artista che diciamo in certe stanze del potere non era così conosciuto quanto lo conoscevamo noi e quindi hanno dato. Ma per fortuna c'era un assessore illuminato che si chiamava Claudio Henry. Esatto, esatto. Ed è giusto ricordarlo. Ed ha dato questa concessione. Ecco, andando oltre qualsiasi regola, oggigiorno tra l'altro l'aspetto sicurezza sarebbe prioritario su tutto il resto. Stadio Druso che nella migliore delle ipotesi, quando c'erano ancora le tribune d'Almini, aveva una capienza di 4.500 spettatori, quindi pensate quanta gente si è in più, tra l'altro ad occupare la parte centrale del campo. Con le coperte, i panini e le bibite. Qui arriviamo subito ad un personaggio importante, significativo, Amanda Lear. Amanda Lear è un personaggio al di là di ogni immaginazione e non è brava di più, è bravissima, io non so cosa dire di Amanda Lear, è talmente brava, rimane in scena per ore con una voce meravigliosa, è affascinante, gentilissima con il pubblico. Cosa posso dire di Amanda Lear? Grazie di essere venuta a cantare. Puoi commentarci la foto? Ma allora, quando vedete le foto di profilo, dovete sapere che all'epoca c'era un controllo della polizia abbastanza forte, anche degli addetti, per cui ti dicevano vai lì o vai là. Se avevi la fortuna di andare là, potevi riprendere il cantante di fronte. Se ti mettevano di lato, le fotografie per forza di cose, dove non ti potevi muovere dalla postazione. E quindi erano tutte di profilo, perché non potevi spostarti di un metro. Anche perché c'era talmente tanta gente che avresti dato fastidio. Quindi quando l'organizzatore ti assegnava il tuo angolino, tu dovevi stare lì, punto, e stare anche zitta. Insomma, così è. Qui vediamo una bel cespuglio di capelli di Angelo Branduardi. Angelo Branduardi è stato gentilissimo, l'ha fotografato all'Hotel Città mentre sorseggiava una bibita, poi mi ha detto vieni vero al concerto, certo, dico che vengo a fotografarla stasera. Qui abbiamo Antonella Ruggeri a sinistra e Migliarito. Che loro sono venuti ospiti di Bolzano, anche qui come vedete qui ho avuto la fortuna con Billy Idol di poter essere di fronte, con la Ruggero di essere di fianco. Ah, ecco una cosa, non so se vi può interessare, all'epoca io usavo le pellicole il Ford 400 ASA di sensibilità, non so se qualcuno di voi se le ricorda, ecco, tutte pellicole Ilford in bianco e nero. Abbiamo scoperto anche i particolari. E poi il mio maestro Jack Alberti mi diceva, quando fotografavo una persona che non aveva la pelle bianca, dovevo aprire, illuminare maggiormente la persona, cioè se normalmente fosse stato un 125, 5, 6, avrei dovuto fare 125, 2, perché dovevo illuminare, cioè praticamente sovraesporre per poter dare la luce a una persona abbronzata. Qui abbiamo un doppio Claudio Baglioni. Sì, Claudio Baglioni, ve lo ricordate quando è venuto invitato dal quarto corpo d'armata? Lì è stata fatta è stata fatta giù al campo militare dell'aeronautica, invitato dall'aeronautica. E sono arrivati tutti i pullman dalle valli, mi ricordo. Anche Vasco Rossi, se vi ricordate, è andato al campo della nazione. Scusi? Abbiamo avuto tutto il concerto. Allora, Domenico Modugno. Domenico Modugno è venuto, diciamo, in zona per cantare, ma qui è venuto per una sua storia personale e io l'ho incrociato sulle passeggiate dei Bucci, è stato un colpo di fortuna, ecco. Però mia, ovviamente della sua storia personale non ho mai fatto cenno. Era bionda. Bob Dylan. Bob Dylan, ragazzi, Bob Dylan, qui la fortuna di essere di fronte e poterlo fotografare è stata eccezionale la cosa, perché a una certa distanza si riesce a riprendere la chitarra e anche il maestro mentre suona, e questo non è che dipende dalla bravura di chi fotografa, ma dalla fortuna che tu hai di avere una buona posizione data sempre da questi organizzatori severissimi, sempre lì con la Ilford. Ecco, qui abbiamo due personaggi che sono molto... Fabio, tu che li hai intervistati, parlami un attimo anche tu che li hai conosciuti. Questa fotografia l'abbiamo fatta in via Dalmazia ai primi di Tony, dopo il concerto. E concerto è stato insuperabile. Fabio ha scritto delle cose meravigliose. Vorrei che tu dicessi qualcosa di Fabrizio. Non ricordo, è stata una bellissima serata e poi c'era ospite anche il figlio, sì. Cristiano della sua band, da 18 anni più o meno, e quindi ha aperto lui il concerto e poi è toccato a... E poi è toccato a Fabrizio per, come ospite anche Bubola, che era autore di parecchi suoi testi. E poi ricordo chiaramente ancora di più la cena dopo. Che abbiamo fatto. E poi, se ti ricordi, era appena stato dissequestrato. Sì, ha rispettato la data di Bolzano. E lui ha dovuto subito rimettersi in tour per recuperare i quattrini della sezione da suo padre. Sì, cioè, dopo il pagamento del sequestro. Ma voglio dire, è stato veramente. Lui sarebbe rimasto tranquillamente in Sardegna a fare il contadino, ma ha dovuto tornare a cantare. Pensate alla serietà. Dopo uno shock del genere, lui ha rispettato la data di Bolzano, che era la prima. Veramente è stato di una serietà incredibile. A parte il bravo, non c'è che dire, insomma. Qui si è andata, diciamo, hai fatto un'incursione al ristorante. No, mi ha invitata lui. No, perché ho chiesto, perché ho detto, ma sì, con la fotografata, però la polizia continuava a spostarmi, eccetera. E mi ha detto, va bene, vieni al ristorante con noi, ci fai altre fotografie. Quindi sono andata bene. E ai primi di Tony, naturalmente, erano tutti contenti. Questo personaggio ha accompagnato la nostra gioventù, e non solo la nostra gioventù. Francesco Guccini, a un certo punto, Fabio, non so se ricordi, ha esordito, diciamo, verso la fine del concerto, ha detto, scusate, devo andare perché ho un impegno importantissimo, proprio non posso rinunciare, mi dispiace, mi scuso, ma devo andare. Perché qualcuno, dove devi andare? Ma dice, devo andare a Londra al matrimonio di Charles e Lady Diana. Non era vero, naturalmente. Ha fatto tutto uno show, te lo ricordi, Fabio? Che ha fatto tutta questa tiritera. Ben nato. Qui torniamo, tutto sotto la pioggia, nel piazzale della Fiera. Battiato. Se lo ricorda, Franco Battiato. Tutto sotto la pioggia, nel piazzale della Fiera. E lo vediamo anche in questa foto. Anche qui Battiato. Anzi, anche si è anche risistemato le sedie. Qui abbiamo invece due grandissimi personaggi, tra l'altro a destra è tornata la ribalta alla grandissima Loredana Bertè. Commentaci questa foto, Francesca. Ma dunque, allora, intanto cercavo, non vorrei ripetermi, ma cercavo sempre le posizioni migliori. Le regole delle fotografie dei concerti erano che doveva esserci lo strumento, chitarra, violino o pianoforte, quel che era, il microfono, possibilmente il microfono vicino alla bocca, e naturalmente, oltre a tutto questo, dovevi vedere perfettamente il viso, quindi ti dovevi gestire, il signore ride, chissà quanti errori. Che poi, insomma, tanto banale non è, perché alla fine è soggetto, verbo e complemento oggetto, per chi scrive, insomma. Si muovono in continuazione i cantanti, poi non è che tu dici, per favore stia fermo, che la devo fotografare. E quindi io mi sintonizzavo tipo scio Formula 1. E magari cercare di capire un attimo importante. Io sinceramente, quando fotografavo questi concerti, alla fine non ricordavo nulla di quello che avevano cantato, ma proprio niente, ricordavo solo le immagini. Ma c'era il timore di non riuscire a... Il terrore, altro che timore. Io ho di quelle lavate di testa da Alberti. Qui abbiamo c'era Giuseppe Pino, che è un grandissimo fotografo di jazz, che diceva che poi una cosa a cui bisogna stare attenti è che si tende a fotografare nel momento in cui è bella la musica e non quando è bello il personaggio. Sì, perché rischi di distrarti per un attimo, no? Oggigiorno, per tra l'altro individuare e scegliere la foto, lo si fa tra centinaia, a volte anche migliaia di scatti all'epoca? No, io di solito facevo due rullini, 36x36, e a volte facevo anche diapositive, però molto bianco, molto molto bianco nero. Io non usavo mai più di due rullini. E qui siamo ad un altro mito. Gianni Morandi, nel giardino dell'Hotel Luna, se ricordate, era qui in Alto Adige per girare un film, ed ha fatto un concerto al Parasport di Venezia. Cosa meditava qua? Scusi? Gli ha chiesto cosa meditava. No, è stato carino, ha fatto un po' di posto, molto gentile, sì. Gino Paoli, anche questo purtroppo di profilo, vedete? Sempre di profilo, sempre in castigo era. E che abbiamo un grandissimo chapeau più. Sì, qui questa è nella casa di Ortisei, della casa di Ortisei di Giorgio Moroder con la moglie Francisca. E qualche riconoscimento. Ecco tutti i riconoscimenti. Qui abbiamo Gaber, ve lo ricordate? Questo è, quando aveva il cappello e questo abbigliamento, faceva questi gesti, cantava il rock, ve lo ricordate? Faceva 2 o 3 minuti di musica rock, te lo ricordi Fabio? Verso la fine faceva 2 o 3 minuti. Senti, con il cappello non era poi così facile da fotografare. Bisognava. Questo ci devi dire dov'è però, perché a Bolzano non è, però... Io in inglese sarà l'arena di Verona. È colui che faceva battere i cuori. Sì, da tutte le donne del mondo. Anziana. E anche qui. Lucio Dalla. Lucio Dalla dove? Allora, io ho avuto una discussione per Lucio Dalla, perché io vi giuro che quando cantava era bello. Appariva bello, diceva tu sei impazzita, ma no, appariva bello quando cantava. Poi lo vedevi dopo, magari finito il concerto, forse al ristorante o qualche parte, e non era così bello. Ma quando cantava, non so se era tutto il gioco dell'Illuccio, che cosa, era bello, punto. Ma proprio bello, e no, a parte bravo, naturalmente. Di Mattia Bazzara. Anche l'Arena di Verona. L'Arena di Verona con una luce già diversa. Sì. E qui abbiamo una grandissima, sempre troppo poco celebrata, anzi. Bravissima. Quando cantava Almeno tu nell'universo, c'era da tremare. Da tanto era brava. Mia malattia. Qui abbiamo un altro che è. Miguel Bosé, non so se vi ricordate, Miguel Bosé. Oltre il Ponte Roma avevano fatto un tendone e lui ha cantato lì. Esatto, una spianata che hanno utilizzato per qualche anno per una park, per il circo e per i concerti, sulla imboccando Ponte Roma, esatto. Da Oltrisarco, diciamo sulla sinistra, o venendo da via Roma sulla destra. C'era questa grandissima spianata, tra l'altro poi riconosciuta fuori da ogni norma di sicurezza, però all'epoca estremamente funzionale come punto di aggregazione per le manifestazioni itineranti, per i grandi concerti, e sicuramente il più importante che si è svolto in quella location è stato quello di Miguel Bosé, che ha messo a dura prova gli organizzatori, ma anche le forze dell'ordine soprattutto. Rivolse a poliziotti dappertutto, perché c'era un pericolo che però io non ho captato, anche perché se fotografo non capto quello che mi dicono. Riconoscete il posto? No, lei la signora. Dov'è? Mino Ferrer a destra e Milva a sinistra. Dove? Piazza delle Erbe. Piazza delle Erbe a Bolzano. Questa foto come l'hai realizzata? Questa foto ho chiesto molto gentilmente di poterlo fotografare, ha detto di sì, e quindi lì ho puntato su, perché non era in concerto, era così per strada, avevo un appuntamento naturalmente in Piazza Navona a Roma e ho pensato di fare dei primi piani perché era la cosa migliore, insomma. Perché molto, era molto interessante. Anche l'eleganza, spaventoso. Sì, elegantissimo, elegantissimo. Abitava a Palazzo Farnese. E qui abbiamo Patti Bravo e Ornella Vanoni a duettare. Riva del Garda, vi ricordate che c'erano queste famose manifestazioni a Riva del Garda, la Vela d'Oro? Eccola. Anche qui bisogna cogliere l'attimo. Eh sì, perché due scatenate così non è facile. E allora qui l'abbiamo scorporata invece. Qui ho avuto la fortuna di essere Peter Tosh. Peter Tosh, questo era altruso. E qui stiamo parlando di un altro grandissimo, Pierangelo Bertoli. Ecco, quando ci sono dei problemi io cerco di evitarli totalmente e cercare di fare dei primi piani, dei semi primi piani, perché non mi piace mettere in evidenza un qualcosa che... Questo, diciamo, è un, usando il termine più semplice, bel Pierangelo Bertoli, bello, espressivo, sì, illuminato. Questo è fatto fuori il coltello obiettivo, cercando di evitare tutta la parte sotto, come vedete. Ma questo lo faccio sempre con chiunque. Pino Daniele? E Pino Daniele, lo ricordate, Bolzano, e Renato Zero, tutti altruso sempre. Renato Zero, tra l'altro, qualche anno fa, giovanissimo. Sì, giovane. Il Renato Zero nel pieno, il Renato Zero del boom. Ma anche Zero. Pino Daniele era proprio il suo boom bello. Non aveva i capelli grigi. Questo invece non è allo stadio. No, questo qui è a un concerto di beneficenza. Renzo Arbore, alla fiera? No, non è stata fatta a Bolzano, è un concerto di beneficenza fatto tra in un tendone dopo l'Armentarola. Avevano organizzato un tendone, un concerto di beneficenza. Giulio del Biscopo. In questa discoteca che c'è in Piazza Domenicani. Si chiamava Marchì Fabio? Sì. Era già Marchì? Era già Marchì, vero? Sì. Ancora? Giulio del Biscopo, nei suoi strumenti. E qui abbiamo un Tony Esposito e un Umberto Tozzi. Tony Esposito era nella band di Pino Daniele, e so che faceva sempre i capricci perché si lamentava perché a Bolzano il cameriere non portava l'acqua minerale in camera quando tornava dal concerto. E allora erano queste le sue preoccupazioni. Invece Tozzi era un'altra calamità per me. Un'altra calamità. Piace moltissimo, ma piace ancora, dei successi pazzeschi. Ray Charles, ecco, qui diciamo che ho avuto veramente delle grosse difficoltà, perché se voi avete visto il concerto sapete quanto si muoveva in modo un po' strano, anche perché non avendo la vista ovviamente non controllava i suoi movimenti, e qui ho fatto veramente, ho sudato 7 camicie per poterlo riprendere in un attimo elegante, che non fosse. E poi le persone che hanno difficoltà di vista spesso muovono la bocca in modo molto strano, spesso, quindi devi cercare di evitare quel momento e di valorizzare il meglio. Lei è un'altra che ha riempito lo stadio d'Urso, diciamo che ha riempito la città di Bolzano. Diciamo che è rimasta nella storia. Sono bravissime. Ma poi poi sai, adesso vedendolo oltretutto, mamma mia, sono passati anni, perché non ce n'è una che abbia una piaga, perché queste non sono corrette al computer come si usa oggi, queste erano proprio così belle, belle di loro. Di quelle che abbiamo visto, sì, qual è quella che ti piace di più o quella che ti è rimasta di più nella mente, nel cuore? Ma diciamo Ray Jasper, ma anche Fabrizio D'Andrea, le persone che hanno avuto delle vicissitudini tragiche, ecco, perché Ray Jasper la difficoltà per poterlo fotografare bene, e Fabrizio D'Andrea perché in fondo è stato un Fabio, ti ricordi, gentilissimo, perché dopo non è un'esperienza del genere, insomma ci ha pure invitati a cena lì dai primi ritorni. Abbiamo un altro capitolo, Adriana Asti. Adriana Asti è dell'81, come tu mi vuoi. Qua dicevo che scritto. Francesca. Sì. Dopo lo vediamo, guarda che c'è un altro personaggio. Andrea Giordana faceva impazzire. Queste fotografie sono state fatte al Castello di Mareccio, sono state fatte e poi lui adorava Bolzano e non so se chi di voi ha avuto la fortuna di conoscerlo, andava tutti i pomeriggi via Roma a patinare di nascosto del regista, perché perché non poteva, se si faceva male, cose del genere, era proibito, lui andava regolarmente a patinare. Principe di Hollywood, faceva Arnaldo Foà sulla passeggiata del Timer. Siamo in Piazza Erbe. Claudia Cardinale. Fabio Testi a Bressanone. E Branciaroli invece a Egna, nel Castello Albrizzi, sopra il Castello Albrizzi di Egna girava un film. Allora Fabio Testi, vi racconto un episodio, era con Vittorio Mezzogiorno, faccio tutte le fotografie nell'abbazia di Novacella. E beh, quando li ho salutati, stavo per andare via, ci sono due signori che dicono: ma perché non fotografa anche noi? Beh, io dico volentieri, avevano una specie di roulotte, eccetera, e vendevano giacche di pelle. Io scusi, dico, ma ne vendete molto? Mi fanno: no, non ci fotografi, per carità, che siamo qui di nascosto. Beh, dico, cosa devo fare? Ma ci vendiamo queste giacche? Ma dico, ne vendete molte, moltissime. Ma dico, io hanno visto la mia perplessità. Dice, ma non si preoccupi, dice, lei ha capito benissimo che sono fasulle queste giacche, non sono di pelle, ma una specie di cartone. Cosa dice? Ma dico, scusa, come fate a vendere? Ah, semplice, hanno detto, noi mettiamo un finto orologio Rolex nella tasca. Finte giacche per finto. Perché? Ho detto, scusa, dico, dice, non ce n'è uno che ci restituisca, allora, perché allora avevano lo specchio, dicevano, si guardi, si giri, si guarda, metta le mani in tasca, ma va bene questa giacca. E tutti andavano via con la giacca, col finto orologio. Con la scusa di dire già Rolex, proprio la giacca. Questo nel cortile della pazzia e non per la strada. Allora, Giulio Pontecorvo e Monica Vitti. Ecco, io qui sono andata letteralmente in tilt, nel senso che li ho fotografati perché sono sempre stata una grande loro ammiratrice, però voi vedete, dall'emozione mi sono scordata che dietro c'era Lendelon. Vedete che c'è Lendelon di fianco? E quello lì è rimasto lì così nell'angolo. Io ho fatto solo loro. Errori. Torniamo a Giorgio Gaber. Gaber, uno dei suoi spettacoli meravigliosi. Lino Toffolo. Lino Toffolo, anche sulle passeggiate nella Brucina. A proposito, anche lo conoscete? Beh, Maria, tu lo conosci questo palazzo benissimo. Solo il palazzo il soggetto. È Palazzo Ducale a Bolzano. E chi è lui? Michele Placido. Ci avevate onorato. Michele Placido qualche anno fa. ecco. Avevamo avuto il permesso di fotografarlo. Irriconoscibile, sì, praticamente irriconoscibile. Non aprono un palazzo locale, no? No, prima. Ha fatto scene di carne, lui è girato, è venuto a Bolzano con Giuliana Dessio, recitavano il comunale di Gris, scene di caccia in Bassa Baviera nel maggio dell'84, perciò la piena degli esposti. Questa è la Pupella Maggio. Pupella Maggio, queste sono state fatte fotografie nel camerino della Haus der Kultur. Quel giorno era il mio compleanno, le ti faccio un regalo. Interpreto una serie di maschere di Pulcinella e mi ha fatto questo bellissimo regalo. E questa foto è stata esposta 2 anni fa al Salvador Dalí Museum di Berlino. Rossano Brazzi. A Merano e la Giuliana Dessio che era con Michele Placido in questo spettacolo Scene di caccia in Bassa Baviera. Qui lei sei buona. Sempre a Palazzo Ducale, sempre a casa tua, Maria. Sì. Tolivio Travallini, questa è una foto fatta in camerino. E qui abbiamo la Valentina Cortese, come sapete aveva credo che ce l'abbiano ancora, casa a San Vigilio di Marebbe. Senti, il colore del cagnolino stampa? Ecco, sì, quello lì è stato un intervento, uno dei rarissimi. E lei si vestiva tutti i giorni così, il marito si vestiva anche alla tirolese, l'autista si vestiva da guardia caccia, uscivano con la jeep e andavano a bere il tè, o a Corvara, o a Colfosco, o alla Romentarola, o a Cortina, sempre vestiti di tutto punto in costume. Valeria Moriconi. Valeria Moriconi invece è stata fotografata a Cortina. Andiamo a vedere un po' di personaggi, quindi vediamo subito uno che ancora oggi con la segretaria Dario Argento in Val Badia a una festa campestre. No, sì, Dario Argento a una festa campestre in Val Badia sopra col Fosco, in uno di quei prati quando fanno i picnic ad agosto. Poi attenzione che qui abbiamo una foto da spiegare adesso, eh? Qui non, questo non è un fotomontaggio, diciamo che è quello che si chiama banalmente errore. Allora, sono andata a fotografare l'onorevole Andreotti a Merano, al Palace. Peraltro giovane. Giovane, veramente, e anche dritto, bello. Anche se con una postura decisamente importante. La sera sono andata a fotografare i Pooh, ve li ricordate? Qualcuno di voi dirà, che ci azzecca Andreotti con i Pooh? Ecco, io dall'emozione, non per Andreotti, ma per i Pooh, ho usato lo stesso rulino. Per fortuna che avevo fatto più rulini e questo è il risultato dell'errore. Però ho detto, tutti facciamo degli errori e io lo dico, ne ho fatto anch'io, questo è il mio errore più clamoroso. E comunque da un errore è uscita quasi un'opera d'arte. Alla fine però mi è servito a porre molta molta attenzione in seguito. Perché se il rulino non era perfettamente rientrata la pellicola, bastava un minimo, lei avrà usato la pellicola, tu dicevi ma è nuovo e quindi così nella fretta del concerto, dell'emozione e tutto, lo rimettevi su. Il fatto ha voluto tra l'altro che si sovrapponessero due personaggi mica da poco. Due pezzi di storia d'Italia, sì. Andreotti e Pooh. Però vedete anche qui lui domina, non è che hanno dominato i Pooh. È lui che domina. Anche qui il dato. L'anno della fotografia. L'altro era lui che domina. Cioè poteva benissimo essere il contrario. Dice, no, anche lì era lui il padrone. È lui il padrone della scena. Questo è Fiorello con una bolzanina, la Rosanna Raffaelli, gemella della Erika Raffaelli, moglie dell'ex sindaco. Qui è la ripa di Meana davanti alla città. in quelle zone in mezzo alle macchine. Questa è fatta, sì, questa è fatta all'Armentarola. L'Armentarola proprio era un posto meraviglioso per le fotografie. Ecco, parlaci del rapporto che ti legava a Marta Marzotto. Scusa? Del rapporto che ti legava a Marta Marzotto. Ma io ero una sua ammiratrice, lei captava molto queste sensibilità e quindi avevo la possibilità di fotografarla in continuazione. Poi, oltretutto, lei amava moltissimo l'Alto Adige, la cucina tirolese, eccetera. Per cui, o per un verso o per l'altro, diciamo che frequentava maggiormente la Valbadia e la Pusteria, però anche Merano. E quindi io avevo occasione di... Avevi un canale privilegiato, nel senso che avevi capito la sua fiducia. Sì, sì, avevo capito la fiducia, addirittura telefonavano loro, e qui sempre in Barbadia. Infatti, la signora, voi conoscete l'Armentarola, quel posto? Ecco lì, su questo terrazzo, qui col figlio Matteo. E qui abbiamo un altro giovanissimo. Mamma mia, che già questo è davanti a casa sua, davanti allo lo steccato vicino di fronte a casa sua in Val di Funes. Lui abitava, se vi ricordate, all'epoca abitava in Val di Funes, i genitori erano due insegnanti della scuola elementare. Diciamo che qui hai fissato un sorriso simpatico. Sì, sì, sì. Ma lui con me è sempre stato molto gentile, anche il mio collezionista, perciò. Eccoci, qui siamo ad uno dei soggetti che tu hai fotografato più volentieri, che hai marcato stretto, ma che hai anche, tra l'altro, diciamo in un certo senso, amato come personaggio, e con lui sei riuscito a stabilire un'empatia forte. Sì, ha fatto molti. Questa fotografia alla destra è stata fatta, conoscete tutti la Val Gardena, Montepanna. La Montepanna, nella stupida del Montepanna, e le guardie del corpo hanno detto: Witzmann, niente fotografie, stia lì tranquilla, seduta e basta, niente fotografie. Quando era l'ordine, non c'era niente da fare. Allora io avevo la macchina fotografica sulle ginocchia e a me piaceva questa scena, però non potevo fotografare perché, se vi ricordate, il click dava fastidio e lo sentivano. Allora ho detto al barista: tu senti, dico, faccia finta di sbagliarsi, alzi un po' la musica, così dico per un attimo e faccio un click. E così è stata, è nata la foto, comunque se ne sono accorta. Esatto, comunque ti hanno, come si dice in gergo, scamata. E hanno fatto però l'unica sola. E come succede però in questi casi, la foto, diciamo così, di strafugo è la foto più bella. Sì, veramente riuscita bene. Infatti è esposta a Montepanna, loro sono tutti contenti. A sinistra c'è un Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, che gioca a bocce, sì, no? Però che non voleva perdere. No, non voleva mai perdere, però giocava anche molto bene. Beh, è nel campo di bocce che c'è a Selva Val Gardena, Val Lunga per l'esattezza, Val Lunga. Ma neanche quando giocava a carte mi ha detto che voleva perdere. Sandro Pertini, tu l'hai seguito un bel po', te ne sai quante di scarpinate al seguito di Pertini? Camminava su di me. Aveva un successo pazzesco, ma anche i turisti tedeschi si mettono, salutavano, scattavano sulla denti. Erano una cosa travolgente, tipo una rockstar. La gente che lo aspettava al ritorno in caserma, tutta una folla enorme, gli piaceva. Ma io tante volte non capisco, sono persone che piacciono moltissimo e altre che non riescono a piacere, pur essendo persone bravissime. Anche perché io ricordo personalmente, Sandro Pertini aveva una parola per tutti. Sì, esatto. E quindi anche questo era un sistema per riuscire a farsi amare dalla A Stella, vicino a Savona, nella sua casa natale, c'è la Fondazione Pertini e io ho regalato tutte le fotografie. C'è una mostra permanente che viene regolarmente visitata dagli studenti, eccetera. Una Rita Levi Montalcini specchiata. Questa qui è fatta all'Eurac di Bolzano. Tony Carani e Michele Mirabella, la Riva degli Adda, conducevano una trasmissione radiofonica. Eccoli qui. sì, Alano, sì. Personaggio, sì. Personaggi di spettacolo. Michele Mirabelle, Torino Alani, sempre arrivato. Questa, beh, voi conoscete tutti l'Alto Adige, è la Stube della Romentarola. Vittorio Gassman. Vittorio Gassman e Paolo Villaggio, nella Stube. Qualche volta venivano anche da Sante, da Dubiaco. Allora, qui vediamo intanto Francesca Wittmann l'altro ieri, e poi Corrado Mantoni, un altro personaggio che ha segnato la storia della televisione, tra l'altro personaggio affabile. Molto, sì. A destra, Don Powell. Don Powell, sì, cantante, avevo chiesto io di poter fare una foto con lui, gentilissimo, ha detto di sì. Qui la foto chi te l'ha fatta, però? L'ha fatta Ghedina, il suocero della Rosanna Raffaele Ghedina, anche, fatta lui, l'ha fatta. Qui vediamo ancora Francesca con Adriano Celentano a sinistra. Io ero un'ammiratrice, io non ho mai avuto una grande conoscenza della musica lirica e ho sempre amato la musica leggera e il rock, perciò io sono molto onesta, sono molto molto ignorante a livello di musica classica, proprio, però super ammiratrice di questi cantanti. E Tony Renis? E lì è stato fotografato quando aveva vinto, non aveva vinto, era arrivato credo secondo, con quando, non aveva vinto, era arrivato il secondo a Sanremo. Vero, non aveva vinto. È la canzone che ha conquistato il mondo, e poi mi pare è arrivato primo qualche anno dopo come ricompensa, ma lì non era neanche stato tanto capito. Qui siamo ancora con il presidente Sandro Pertini. Qui siamo a Bolzano, circolo cittadino. Sì, tu al presidente Pertini hai dedicato una mostra. Sì. Hai dedicato moltissimo a Sandro Pertini. Sandro Pertini, tra l'altro, è stato anche riconoscente delle splendide foto che tu hai fatto e gli hai fatto. Qui siamo? Qui siamo al circolo cittadino di Bolzano. Il circolo cittadino desiderava moltissimo avere come ospite Sandro Pertini ed era molto difficile. Diceva sempre di no. Allora a un certo punto il presidente di allora, l'ingegnere Lentini, mi ha detto: ma Francesca, c'è lei che va spesso a fotografarlo, ci metta una buona parola. E io come faccio a metterci una buona parola, non mica questo potere, non è che posso parlare col presidente, sì, sto a tavola con loro, ma in fondo mica sto alla sua destra. E allora pensa, lui dice: ma sai, dice Francesca, lei ha tante foto, sì, facciamo una mostra. Dedichiamogli una mostra. E così è stato. E allora col fatto della mostra mi è venuto a inaugurarla ed è venuto a circolo cittadino a Bolzano. C'era la via della mostra bloccata, letteralmente bloccata. Una mostra tra l'altro che tu poi hai esportato. È andata ovunque questa mostra. Subito dopo è andata a Roma, a Palazzo Barberini, e poi ha cominciato a Losanna, Ginevra, Zurigo, Berna e la Germania, eccetera, eccetera. Si è andata molto, molto, molto bene. È vero che te la chiedono ancora oggi? Sì, altro che la chiedono ai punti. E sono sempre molto stupita di questo fatto. È stata ripetuta diverse volte a Cortina, anche a Milano. La chiedono ancora. Ci sono personaggi che piacciono, non c'è niente da fare. Raccontaci un aneddoto del presidente Pertini. Però un aneddoto. Allora, quando uscivo al mattino, mia mamma diceva: hai le scarpe pulite? Perché per lei andare dal presidente significava avere le scarpe pulite, non so perché. Arrivavo in Val d'Ardenna e aspettavo. Allora, primo anno ho fatto una fotografia, una sola, in bianco e nero, sfocata. Io vado anche il secondo anno, mi facevano aspettare fuori dalla caserma dei carabinieri, e allora ho detto al generale Maffei, ho detto: eccellenza, ho detto, io l'anno scorso ho fatto una fotografia sola, bianco nero, sfocata, e accanto a lui io non mi ero accorta, c'era il presidente all'interno della GIP, e sento che dice: allora per castigo sta tutto il giorno con noi, e l'ha fatta salire sulla GIP tutto il giorno con loro. Era vero, una foto bianco nero sfocata, per di più, quindi anche quello serve. vabbè, insomma, è così, e noi siamo i pochi monarchici. Una volta c'erano mio padre, mia madre e mio fratello, adesso ci sono solo io. No, poi però abbiamo consegnato il libro di Pietro Marangoni della Galleria La Stanza, insomma c'è un legame con Bolzano. Marangoni ha dedicato una mostra in Savoia, mi ha fatto un libro e io l'ho consegnato. Allora Francesca, siamo arrivati addirittura ad arrivo con le foto, però poi c'è un attimo un piccolo flashback. Di questi personaggi qui, qual è quello che ti... quello più simpatico e quello un pochino meno? Uomo o donna? Distintamente. Diciamo quello che è stato più difficile o più riottoso, e quello che invece si è... successo più facilmente l'obiettivo. Diciamo che all'inizio io avevo l'ordine di chiedere di fotografare, però di chiedere due volte, se dicevano di no, non si chiedeva più. Ma personaggi molto molto gentili, scusate, c'era Mazzotto che il presidente Bertini. Raymond Messner all'inizio è stato un po' così, poi quando ha visto che le sue fotografie andavano non solo su Alto Adige, faceva anche il Corriere della Sera, si è sbloccato e è diventato molto più gentile, però all'inizio era un attimo molto difficile. Hai detto un attimo fa, si chiedeva 1/2 volte, sì, esatto. Oggi non si chiede più. Ma io chiedo sempre, e do del lei rigorosamente, anche se dovessi fotografare un bambino, do sempre del lei, sempre. Non esiste che io dia del tu, anche se me lo dicono 500 volte al minuto secondo, sempre del lei. Chiedo 2 volte e se dicono di no hanno dei motivi, oppure se dicono di sì, va bene. Senti, nella tua lunga attività carriera, qual è la foto, al di là di quelle che abbiamo visto, che più ti piace? Fotograficamente parlando, la Rita Levi Montalcini. La Rita Levi Montalcini per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che ha scoperto, eccetera. Senz'altro lei, insomma. E il ricordo? Lei mi ha fatto aspettare 2 anni. 2 anni, raccontaci. Per 2 anni gli ho chiesto di poterla fotografare, poi avevo fatto qualche fotografia, ma non mi piaceva. Poi fortunatamente è venuta a Bolzano, è venuta una data a Rovereto, poi mi ha detto ma vengo anche a Bolzano all'Euro, e allora sono andata lì, e fatta questa. La persona che umanamente ti è rimasta nella mente e nel cuore? Direi il presidente Bertini. Ma sono quelle persone che ti mettono a tuo agio immediatamente, non ti creano difficoltà, cioè a parte diciamo la scorta e tutte queste cose, però non sono persone spocchiose con la puzza sotto il naso, con tutte queste cose qui, insomma. Ci dici dove hai imparato e come hai imparato? A Bolzano, da Studio Alberti. Gavetta? Altro che gavetta. Ma io avrei sempre voluto fare questa cosa, però all'epoca, e non posso neanche dare torto ai miei genitori, non c'era una vera e propria scuola fotografica. Tu per diventare fotografo dovevi spazzare 3 anni in negozio. Dopodiché era così, era diventare artigiano, poi potevi diventare fotografo. E io non ho fatto questa trafila, però da Alberti sempre ore e ore. Infatti la moglie di Alberti, Giampiero e la Cristina, si ricordano ancora i pianti, le lacrime, tutto. Perché era terribile Alberto, terribile. Non ammetteva errori, non li ammetteva. Però un maestro. Ah beh, senz'altro. Di quelli importanti. Esatto, sì. E poi lui era molto preparato, mi diceva sempre, ricordati non fare certe fotografie di certi personaggi in certe posizioni, perché poi magari cadono dal piedestallo e viene usata quella fotografia in maniera ironica. Se le persone hanno dei problemi, tu cerca di evitarli in tutti i modi, insomma cerca di metterti in qualunque posizione pur di non mostrare il loro problema. Pensi che mi ha mandato per 1 anno a fotografare l'occhio, perché non stecca, il disco e l'atleta. E quindi semmai non poteva. In una disciplina veloce, veloce, tra l'altro al Palaghiaccio di Via Roma, con l'illuminazione decisamente precaria. Esatto, e lì lui carica di ombre. Dovevi avere tutto. Non è che potevi portare una fotografia senza il disco. Ricordo che alcune volte io sono stata letteralmente spostata di peso dalla polizia. No, ma è vero, allora. Ma la cosa poi pazzesca è che il poliziotto finisce di spostarmi, arriva il disco esattamente dove ero io. Sì, anche perché tra le altre cose i fotografi c'era la rete. E non c'era la rete, perché altrimenti non potevi fare le fotografie. Allora io, a parte che ho ringraziato subito, poi dopo, il giorno dopo sono andata via Ponte Druso, dove la loro sede, con un cesto di fiori, non li volevano, ho sentito, dico, mettete dove volete, ringraziate il Signore che mi ha spostato, eccetera. Beh, è arrivato lì un attimo dopo, perciò immaginare. La stessa cosa vale per il tennis, c'è la pallina, la racchetta, tu devi avere tutto, più la rete e un po' di sfondo di campo, e sono velocissimi, tu lo sai, viaggiano a velocità pazzesca. Pallina e disco, mai movimento, mai sfogati tra l'altro, giusto? Allora, dunque Giampiero, dunque Alberto mi diceva, senti, cosa fai domani? Ma come andare a Lido? Mi ci tenere a Lido, vai di fronte a casa tua al tennis e allenati a fotografare. Mettevo, così era, mettevo velocità 500, 1000, cioè, sempre pellicola, non ho mai usato altre pellicole, perché erano, costavano un po' meno, però non era, la resa non era la stessa assolutamente, ma anche per un anno per l'occhio ci ho messo, andavo la sera e continuavo tutto. La vita è pericolosa. E guai tra l'altro, guai portare il dischetto sfocato o la pallina sfocata o il pallone sfocato. Guai, deve essere perfetto, non può essere sfocato niente. Ma per esempio mi ricordo Planck nella discesa libera in Val Gardena, insomma, mi ha fatto una scarpinata che non finiva più. E io dicevo, ma maestro, cos'è che per favore non possiamo fare le foto giù? No, devi imparare a fotografare, perché dice la discesa si fotografa di profilo. Quando fa il salto, perché lui mi faceva anche le domande, mi diceva come fotografo lo slalom? Allora io dicevo, bello fotografo, sto attenta ai bastoncini dove sono, allora perché non colpisca, dovevo sapere tutto dello sport, perché lui mi diceva, ricordati, quando vai a fotografare una cosa devi sapere tutto da A alla Z, tutto dello sport, conoscere lo sport. Quindi era, questo era veramente terribile. E non si poteva sbagliare. Una volta con Stelmark, sono tornata dall'Arsenale, c'erano gli occhiali, ma diceva, perché non mi hai chiesto di togliere gli occhiali? Ma dico, perché? Dico, avevo i problemi. Cioè, per cui avevo gli occhiali che non si capiva niente. Però è vero, in effetti, se tu fotografi lo sport, devi conoscerlo. Perché non puoi fotografare, non so chi di voi fotografa lo sport, ma è così, devi conoscerlo, c'è niente da fare. Ecco, lì per esempio ho avuto un po' di difficoltà col pugilato, perché stavano dei pugni talmente veloci. No, non è vero, io ho avuto un po' di difficoltà col pugilato. Anche perché devi cogliere l'asso e quando il pugno arriva al segno. Andavo anche ai prati del Tavolo a fotografare il rugby, andavo anche lì. Cioè, devi, come dice Daniele Maganin, non può essere nulla sfocato. Nello sport tutto deve essere perfetto ed loro sono velocissimi, per cui io dovevo essere ancora più veloce. Ecco, come i tuffi per esempio, dovevo scattare prima che si elevassero dalla piattaforma, perché se lo scattavo in quel momento era già tardi. È vero che i tuffi sono lo sport più difficile da fotografare? Difficilissimo, una frazione di secondo, millesimi di secondo. Jack Alberti era un maestro dei tuffi. Bravissimo, bravissimo. Solo lui sapeva fotografare a tuffi. C'è anche altri oggi, però all'epoca. Arte, stiamo parlando di arte. Oggi parliamo di fotografia, ieri di arte. No, la fotografia deve essere bella, perché se non è bella, scusi, che senso ha? Allora, se avete qualche domanda, volentieri, prego, prego. Grazie. Signora, grazie veramente per questa serata. Abbiamo potuto ammirare foto stupende fatte con una tecnica veramente eccezionale. E volevo chiedere solo questo, perché poi le foto in movimento, naturalmente per venire così perfette ci voleva la tecnica che lei ha avuto, senz'altro. Per quanto riguarda tutte queste foto, non è mai capitato di avere un, diciamo, un religioso, un vescovo, un prete, perché ho visto che ha toccato tutti i campi, però non è mai capitato di dover interpretare una cosa di questo genere. Io ho avuto l'occasione di fotografare le loro santità a Bressanone, Papa Ratzinger, e a Castel Gandolfo, Papa Wojtyla. E poi adesso sono stata, ho avuto la fortuna di essere ricevuta il primo sabato di marzo da Papa Francesco, nella famosa sala di Roma. Adesso io volevo dire questo, visto che lei è ancora così arzilla, così perfetta nella sua tecnica, le piacerebbe utilizzare questo suo lavoro con i nostri politici o personaggi attuali che ci fanno vivere momenti brutti e momenti belli? Grazie. No, dei personaggi attuali sinceramente non l'ho fotografato nessuno. Allora, diciamo una cosa, che quelle che vi ho fatto vedere oggi sono solo tre situazioni, tre capitoli, ma anche poi la sintesi anche di tantissime foto, ovviamente per ragioni di tempo e per ragioni di scelta, ma in realtà Francesca ha fotografato la storia non solo di Bolzano, non solo dell'Alto Adige, ma una storia importante a 360 gradi. Tra l'altro ha anche, diciamo, messo in posa personaggi importanti che in posa non si sarebbero mai messi. Quindi questo significa che è riuscita con quei personaggi anche a entrare, come dicevamo, in apertura, in empatia, perché bisogna generare quella fiducia reciproca per fare delle foto anche artistiche particolari. Uno si deve anche prestare, giusto Francesco? Sì. Ci sono altre? Sì. Prego. Come che fai a trovare il punto luce in tutti i video? Il punto luce me l'ha spiegato il grande maestro Luigi Veronese, il pittore. Io ho frequentato una scuola apposita, ho frequentato questo corso che ha tenuto a Castelmareccio, e spiegando il punto luce. Il punto luce, io quando guardo un quadro riesco a trovare il punto di luce partendo da sinistra a destra molto molto lentamente. Con l'obiettivo io guardo molto molto lentamente la persona e lo trovate, se voi provate anche davanti a un quadro, una fotografia, lo trovate, però è individuale perché ognuno di noi vede in maniera diversa. Però ad esempio un bravo attore che cambia tutte le sere il palcoscenico sa trovare il punto luce ed andare incontro ai tecnici delle luci e al fotografo. Sono dei punti precisi, io lo riesco a trovare perché c'è un... devi stare molto molto molto attento, cioè devi un po' socchiudere gli occhi e guardare lentamente, però non troppo lentamente perché sennò ti scappa anche il personaggio. Però io ormai ho fatto tanto tanto allenamento e ho avuto la fortuna di avere Luigi Veronese, che voi conoscete, questo grande pittore, che mi ha spiegato questa cosa. Ho frequentato il suo corso, ho frequentato tanti corsi di fotografia, tanti tanti. Io le mie ferie le usavo per andare a frequentare corsi di fotografia anche a Salisburgo da Kokoschka. Vi racconto un episodio di Kokoschka. Era grande Kokoschka, un grande personaggio, lo conoscete, c'è un evento eccezionale. Questa sera siamo invitati a cena dai Fürstenberg nel castello e c'è la Maria Gabriella di Savoia. All'epoca era un evento eccezionale. Si è invitati, si va, e il marito della Nives Milani, la giornalista di Radio Cortina. Allora, c'era una tradizione, tutti i ragazzi alla fine dell'anno scolastico andavano in Austria ad imparare il tedesco e andavano dai Fürstenberg a fare i camerieri, che ne so, i maggiordomi, quelli che stirano, quelli che lavano, cioè ognuno faceva qualcosa, e per imparare frequentavano questo corso. arriva il Gianni Milani, ha chiesto di poter servire a tavola, perché lui voleva servire a tavola, voleva servire la Maria Gabriella di Savoia, Longo Cosca. Allora fa, porge il piatto e la principessa dice grazie, e dice, non c'è di che, principessa, licenziato in trono. Perché il cameriere deve essere sordo muto, non deve sentire, e lui non poteva dire, non c'è. Quindi quando il cameriere non risponde non è che perché è maleducato, perché la scuola alberghiera impone di essere sordo muto. Non so se l'hanno mandato a fare lo stalliero o qualcosa, comunque non l'ho sistemato. Senti Francesca, la foto che non sei riuscita a fare, il personaggio che non sei riuscita a immortalare, che vorresti immortalare? Dunque, di Striscia ho fotografato Lady Diana Rimini, a Rimini. Era andata per il premio Piume, per il premio Manzù di Beneficenza, era ospite di Enzo Biagi. Era una serata di beneficenza, ero già al Grand Hotel. E lì una proprio fatta molto male in qualche modo. Due persone che mi sono dispiaciute è stata la mamma mia, mi sfugge, Madre Teresa di Calcutta. Ecco, lì non ci sono riuscita. Avevo sempre questo impegno rimandato, poi non ci sono riuscita. Bene, se ci sono altre domande, prego Cristina. Francesca, come hai vissuto tu che hai lavorato con analogico, il passaggio col digitale, come questo passaggio così lento, cioè perché era bravura veramente, a parte le luci dei concerti, a parte la scarsità di tante cose, delle pellicole stesse, adesso una macchina la tiri a 20.000 ISO e cioè più capacità. Come hai vissuto questo passaggio? Ma all'inizio ero abbastanza traumatizzata perché preferivo la pellicola, trovavo le fotografie migliori, mi sembravano più belle, stampate meglio, sviluppate meglio, erano molto più belle in pellicola, secondo me allora. Adesso però sono stati fatti progressi pazzeschi, per cui va bene anche l'attuale. Però io quello che non concepisco, cioè questa era anche una delle regole del maestro Alberti, non è che tu devi fare mille fotografie o scene e poi dici ma forse una esce, sarà bella. No, devi fare mille fotografie perfette, una super perfetta. Bisogna partire da questo concetto, no? Adesso scattano col telefonino, ah ma tanto le cancello, ma che senso ha, scusa? Fai una fotografia, falla bene, no? Per cancellarla, ma per tenerla. Questo che non capisco nelle nuove generazioni. Questo cancellare, cosa serve? È una perdita di tempo, scusa, cosa vuoi cancellare? Concentrati e la fai bene la fotografia. Bene, se avete altre domande. Allora io ringrazio Francesca. No, grazie a voi.